Ascolti il dialogo. Allora, che mangiamo? Sara deve assaggiare la fiorentina. What's la fiorentina? È la famosa bistecca con l'osso. The steak with the bone. È squisita. Oh, yes, I've heard about it. Ok, perché no? Allora ordino io per tutti. Ecco l'acqua e il vino. Signor Giuseppe, vogliamo mangiare la fiorentina. Ah, la nostra specialità. A few words about this traditional Florentine dish. La fiorentina. The real fiorentina steak must weigh at least 800 grams and must be 4 centimeters thick. It's grilled only for a few minutes on both sides because it must stay rare on the inside. A porterhouse steak, you might think, but the secret of the fiorentina lies in the meat. It must come from a particular breed, the so-called Chianina, a huge white cow bred in Tuscany.